Ciao, io sono Laura Voltolina e questa è la mia newsletter in forma di audio. Oggi parliamo di coraggio. Se mi leggi da un po' o ci conosciamo personalmente, potresti ricordarti che sono ripartita da zero due volte in due anni in due città diverse e senza avere in nessun modo le spalle coperte. La settimana scorsa è stato l'anniversario del mio ultimo trasferimento, quello ad Ancona. E per inciso, se stai pensando di traslocare in agosto, ascoltami, non farlo, dico davvero. In una conversazione con la mia amica Patrizia, ciao Patti, lei mi ha fatto notare che io sono sempre stata coraggiosa fin da piccola. In effetti che sono coraggiosa mi è stato detto spesso in passato, ma ti assicuro, mai quanto in quest'ultimo anno. Pare che andare a vivere in una città dove non conosci nessuno, e al di là dei consueti motivi per cui le persone si trasferiscono, amore o lavoro, sia l'elemento che più di tutti rende coraggiosi agli occhi altrui. Soprattutto se i 20 anni li hai passati da un pezzo. Ad esempio, me l'ha detto anche un'amica recente, anconetana. Abbiamo la stessa età e lei ha un lavoro autonomo e 6 figli. 6. Ecco, per me lei è coraggiosissima. Coraggio è letteralmente avere cuore, quella forza d'animo che permette di agire nella direzione che sentiamo necessaria. Ogni persona ha un proprio speciale coraggio. Non è mica una frase fatta, sai. Se ci pensi, nessuno mai, in ogni universo possibile, potrà essere esattamente come te, con la tua storia, con il tuo DNA, con le tue speciali caratteristiche. Ogni persona è unica. E ogni persona ha un proprio speciale cuore e un proprio speciale coraggio. Non hai coraggio solo se hai 6 figli o un lavoro autonomo. Non hai coraggio solo se viaggi da sola per il mondo o se ti lanci con un paracadute. Non hai coraggio soltanto se ti trasferisci in una città totalmente nuova o se ti licenzi da un contratto a tempo indeterminato. Mi racconti qual è il tuo peculiare coraggio? Me lo dici? Ad esempio, potrebbe volerci coraggio anche per partecipare a un ritiro yoga. Eppure vale la pena di partire, di mettersi in gioco, di partecipare. Quindi se sei in dubbio se farlo o no, se hai questo dubbio, beh, questo è il momento. Cavalcare l'onda dell'ansia. È l'ultimo ritiro yoga dell'estate, saremo in Toscana dal 26 al 28 di agosto e c'è uno sconto se vieni con un'altra persona, per entrambe le persone. Però le iscrizioni chiudono il 12 agosto, sabato. Tienine conto. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Jorge Luis Borges, dal suo Aleph. 1300 anni e il mare stanno tra il destino della prigioniera e il destino di Throgtulf. Entrambi oggi sono irraggiungibili. La figura del barbaro che abbraccia la causa di Ravenna, la figura della donna europea che sceglie il deserto, possono apparire contrarie. Eppure, ambedue furono trascinati da un impulso segreto, un impulso più profondo della ragione. E ambedue obbedirono a quell'impulso, di cui non avrebbero saputo dar ragione. Forse le storie che ho narrato sono una storia sola. Il diritto e il rovescio di una medaglia sono, per Dio, uguali. Un abbraccio con tutto il cuore, Laura. Per raccontarmi il tuo coraggio e per iscriverti al ritiro a cavalcare l'onda dell'ansia, scrivimi a laura@keyoga.it. Ciao!